headlights are on. Febbraio del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione, spazio che andrà avanti sino alle 22:30. Dopo questo spazio ci sarà 25 o'clock che vi condurrà nel cuore della notte. Prove tecniche, una trasmissione che si occupa di ambient, di industrial, di sperimentazione in genere. Vado a salutare Maglia in Umbria, Marco Magia di Progetto Sonoro, Like Wake che si è esibito sabato scorso in un ottimo live qui a Roma, Sara Boy a Berlino, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Anna qui a Roma. Abbiamo Pindar con Cecilia Miradoli, di quale è uscito anche un singolo dal nome Red, un ottimo singolo che fa da apripista a un prossimo lavoro, probabilmente ottimo come loro tradizione. Doriana Panico che ci sta ascoltando in quel di Taranto. Saluto Hans Brakovic di Krur, Angie Sellarione Angela qui a Roma, Tiziano Zeno Farinacci stasera è di prove, quindi si sentirà il podcast che puntualmente verrà messo in rete domani mattina. Vado a salutare anche Tabula Rasa, fedelissimo da Cortina d'Ampezzo. Questa sera andiamo a concludere l'ascolto di una serie di album, a cominciare da questo lavoro recentissimo dello svedese Rise on Death, Peter Andersson, vero nome. Si chiama Darkened Obscurities, una testimonianza live che si sviluppa in 4 lunghi movimenti, un live in Belgio di 2 anni fa. Ci ascolteremo una gran parte di Sanguis, la traccia che lo va a concludere. pathos. Il pathos solenne e oscuro, oscurissimo di Rise on Death. Questa solennità che proviene da Darkened Obscurities, questo lavoro del 2024 per Peter Anderson. Qui con la sua, con il suo nome, diciamo, con la sua attività artistica più nota. Artista che ha ispirato molti musicisti che si sono anche succeduti su queste orme, tra tutti Vestigial, che insieme a New Horizon Throne tengono alto, alta la bandiera del dark ambient italiano. E Vestigial nello specifico è tornato dopo tanti anni di silenzio, e l'ha fatto con questo Descending Vastness, album che si va a chiudere con due episodi, 8 setre e Do You Hear the Earth Cry. Thank you. E dietro Vestigial si nasconde Alejandro Glacial, pseudonimo per un artista in realtà proveniente da Napoli. Descending Vastness, dunque Vestigial, e lo ripetiamo anche per Angie che ci sta ascoltando e che ha gradito alquanto questo artista, uno dei principali esponenti della scena dark ambient italiana. In questa circostanza intanto si va avanti, i suoni non sono lontanissimi, anche se l'afflato è diciamo più sperimentale ed appartiene a questa collaborazione tra Fonogramma e Luca Ferro, si chiama Limen Memorie. Limen Memorie che si apre con Veiled Riddle, una lunga traccia di ben 18 minuti, e questa sera ci ascoltiamo la seconda parte. Un inquieto drone ha dominato l'inizio di questo album di Fonogramma e Luca Ferro, Lime and Memory, arricchito però da rumori di fondo che hanno caratterizzato questa traccia di 18 minuti. Album che esce attraverso l'Unexplained Sounds Group di Raffaele Pezzella, esperienza spesso presente nelle selezioni del sottoscritto del mercoledì sera. Andiamo a trovare Erik Van Bontergem, musicista sulla breccia ormai da circa 40 anni, e una delle sue nuove, diciamo, attività consiste in Expo tra industrial e ambient, quindi un ambito assai diverso dalle consuete matrici elettroniche di nostra conoscenza, in primis Monolith. Su Sound on Monolith esordisce con Interconnection. A differenza delle scorse settimane, dove abbiamo privilegiato delle lunghe tracce, questa sera ce ne ascolteremo ben tre, evidentemente molto più corte, ossia Decisions, Tension e New World. Then your life is not worth it. True virtue is not submission, but the ability to balance what you are, but also what others perceive you to be. If you give the impression they will treat you wrong, they will treat you. You allowed others to disrespect you. How many times have you stated more than wrong? It's not about being cruel. It's about being strategic. The key is knowing when to act, when to speak, when to retreat, and when to attack. The world values purity of heart. It doesn't. The world values power, security, the ability to make tough decisions. Kindness is only respected when it's accompanied by authority. If you don't have power, your kindness is irrelevant. intanto andiamo a salutare Anna, un grosso bacio a lei, Anna che si è connessa orora qui su prove tecniche di trasmissione ed è entrata mentre mandavamo Expo Interconnection, lavoro di esordio che si è sviluppato su tre brani assai diversi tra di loro: il fremito avanguardistico di Decisions, il tribalismo glaciale di Tension e l'ambiente scuro di New World. E chissà se avrà un seguito questa nuova avventura sonica di Erik Van Bontergen. Ora ci spostiamo da Trepan Herrings e Ritualen, ennesima compilation con del materiale rarissimo. Totality of Death, questa volta abbiamo il capitolo Omega dopo che ci siamo gustati quello Alpha. Si apre con Elon e Cross Abyss e Papist Pretender. We'll be right back. E lui era Trepan Hennings, Rich Wallen. Da questo Totality of Death, una compilation del 2024. Intanto era scomparso per un attimo il segnale, spero che tutto vada in buon ordine in questo momento. Sono gli scherzi dello streaming. E chiaramente chi è l'ascolto è pregato di segnalare qualsivoglia difficoltà di ascolto. Dunque, Totality of Death per questo svedese proveniente, no, la città non la so, credo Stoccolma. Anzi no, Göteborg, lui è Thomas Martin Eklund, 1977 la data di nascita e ormai molti anni in attività. Andiamo verso la storia della sperimentazione e ci spostiamo addirittura negli anni 70 e quindi i più attenti sanno che mi sto per inoltrare nel pianeta Cabaret Voltaire. Di Cabaret Voltaire ci siamo ascoltati in queste settimane un album che portava del materiale addirittura del 1974 fino al 76, materiale qui in maniera opportuna rimasterizzato e rintracciabile su Bandcamp. E allora ci andiamo ad ascoltare la traccia più lunga di questo lavoro dal nome The Outer Limits.